ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Il diario di Etty Hillesum. Traduzione di Chiara Passanti. Domenica mattina, 10:30. Non c'è ancora abbastanza spazio in me stessa per far posto alle molte contraddizioni, mie e di questa vita. Nel momento in cui ne riconosco una, sono infedele all'altra. Venerdì sera, dialogo tra S e L, Cristo e gli ebrei. Due filosofie di vita, ambedue nettamente delineate, brillantemente documentate, compiute e armoniose, difese con passione e aggressività. Tuttavia, trovo sempre che in ogni filosofia che si vuol difendere si insinua l'inganno e che si finisce sempre per usare la violenza a spese della verità. Eppure io devo e voglio cercare il mio pezzo di terreno cintato, prima dolorosamente conquistato, poi appassionatamente difeso. D'altra parte, la sensazione di fare così un torto alla vita. Paura, però, di sprofondare altrimenti nell'indeterminatezza e nel caos. Comunque sia, tornavo a casa dopo quella discussione sentendomi tutta animata e frizzante. Però sempre la reazione. Non è veramente un'assurdità? Perché le persone si danno così ridicolmente da fare? Non si stanno forse ingannando? Nello sfondo si intravede sempre quest'incertezza. Poi è arrivato mio padre, pieno di amore, un amore studiato. Il giorno prima, dopo quella vigorosa preghiera mattutina, m'ero sentita liberata e felice e leggera. Quando è arrivato, il mio piccolo papà, col suo ombrello scambiato e una nuova cravatta a scacchi e molti pacchetti di panini imburrati, quasi indifeso, mi ha preso di nuovo l'imbarazzo, la paralisi delle forze, una grandissima infelicità. Avevo un atteggiamento negativo nei suoi confronti, anche per effetto di quella discussione della sera prima, e l'amore non mi aiutava. Non c'era, del resto. Del tutto paralizzato, molto strano. Di nuovo caos e smarrimento. Alcune ore di crisi e ricaduta, come nei periodi peggiori. Così potei rendermi conto un'altra volta di quanto certi periodi passati fossero stati difficili. A letto nel pomeriggio. La vita di tutti gli uomini sentita di nuovo come una gran storia di dolori, eccetera, eccetera, argomento troppo esteso per scriverne. Allora mi sono resa conto di un rapporto che c'è tra noi due. Mio padre, a un'età avanzata, ha sfumato tutte le sue insicurezze, dubbi, probabilmente anche complessi di inferiorità puramente fisici, difficoltà irrisolte nel suo matrimonio, eccetera, eccetera, ha sfumato tutto ciò grazie a un atteggiamento filosofico del tutto schietto, amabile, pieno di umorismo e molto acuto, ma con tutta la sua acutezza molto vago. Sotto questa filosofia, che giustifica tutto, che guarda solo all'aneddotico senza approfondire le cose, mentre sa che esistono le profondità, forse perché lo sa quanto incommensurabilmente profonde siano le cose e perciò rinuncia in partenza a trovarne chiarezza. Sotto la superficie di quella filosofia rassegnata che dice «Oh sì, e chi lo può sapere?» si apre il caos. È lo stesso caos che minaccia anche me, quello da cui devo uscire e in cui devo vedere il compito della mia vita. È il caos in cui ricado ogni volta. E in fondo le più piccole espressioni di mio padre, di rassegnazione, umorismo, dubbio, mi toccano in qualcosa che ho in comune con lui, ma da cui devo staccarmi per evolvermi ancora. Quanto alla precisa discussione dell'altra sera, dietro alle mie reazioni c'è sempre il dubbio, ma non è del tutto assurdo. E questo leggero sottofondo si è fatto più forte con l'improvvisa intrusione di mio padre nel mio mondo. E allora, naturalmente, quella resistenza nei suoi confronti, i miei blocchi e il sentirmi senza forze. In fondo questo non ha niente a che fare con mio padre, cioè non con la sua persona così cara, commovente, amabile, ma si tratta di un processo interno mio, il legame fra le generazioni. Dal caos, dal non aver preso posizione nei confronti delle cose, da ciò devo ora formare me stessa. Dunque ora sì prender posizione, nota bene, confrontarmi con le cose, anche se ogni volta sarò presa dal dubbio, non è assurdo tutto quanto? Sì, sì, bambini miei, così è la vita, eccetera, eccetera. Una volta chiarito questo rapporto, ritornavano forza e amore, e lo spavento di quelle poche ore era superato. Mercoledì mattina, le 8, in bagno. Sveglia nel cuor della notte. Mi sono improvvisamente ricordata di quel sogno pieno di significato. Per qualche minuto ho cercato di rievocarlo con tutte le mie forze, quasi con avidità. Avevo la sensazione che anche quel sogno fosse una parte della mia personalità a cui avevo diritto e che non potevo lasciarmi sfuggire. Che dovessi conoscerlo se volevo sentirmi finalmente una persona completa e armoniosa. Alle 5 mi sentivo di nuovo gonfia, avevo nausea e un po' di vertigine, o erano solo fantasie. Per 5 minuti ho vissuto l'angoscia di tutte quelle ragazze che s'accorgono con terrore di aspettare un figlio non desiderato. Credo di essere affatto sprovvista di istinto materno, e me lo spiego così. Trovo che la vita è sostanzialmente un gran calvario e che tutti gli esseri umani sono infelici, quindi non voglio prendermi la responsabilità di aumentare il numero di quegli sventurati. Più tardi ho acquisito qualche merito eterno nei confronti dell'umanità. Non ho mai scritto un cattivo libro e non ho il rimorso di aver aggiunto un altro infelice a quelli che già vivono su questa terra. Di nuovo mi inginocchio sul ruvido tappeto di cocco, con le mani che coprono il viso, e prego. Signore, fammi vivere di un unico grande sentimento. Fa che io compia amorevolmente le 1000 piccole azioni di ogni giorno e insieme riconduci tutte queste piccole azioni a un unico centro, a un profondo sentimento di disponibilità e di amore. Allora quello che farò o il luogo in cui mi troverò non avrà più molta importanza. Ma non sono ancora affatto a questo punto. Oggi inghiottirò 20 pillole di chinino. Non mi sento proprio tanto bene a sud del mio diaframma. Venerdì mattina, le 9. Camminando nella nebbia ieri mattina, di nuovo questo stato d'animo. In fondo ho già toccato i limiti. È già successo tutto, ho già vissuto tutto, perché continuo a vivere? Ormai conosco tutto e non potrò più fare altri passi avanti. I confini diventano troppo stretti e una volta che siano stati oltrepassati non mi rimarrà che il manicomio. Oppure la morte. Però non avevo ancora pensato a questa soluzione estrema. La miglior medicina è allora un po' di aridissima grammatica o il sonno. E l'unica cosa che mi fa sentir realizzata in questa vita è perdermi in un pezzo di prosa o in una poesia che io mi sia conquistata con fatica, parola per parola. Un uomo non è la cosa più importante per me. Forse perché ho sempre avuto tanti uomini intorno? A volte mi sento proprio come se fossi sazia di amore, in senso positivo, voglio dire. La vita è stata davvero molto buona con me, sempre e anche ora. A volte è come se io fossi già passata attraverso lo stadio dell'io e del tu. È facile dire queste cose dopo una notte simile. E ora mettiamo nell'acqua i miei cari piedini. Persino questo traffico con un bambino non nato è una cosa impossibile per me. Ma si farà, vedrai. Di pomeriggio, 5:15. È importante che non mi lasci dominare da quel che mi sta succedendo. In un modo o nell'altro deve rimanere un fatto subordinato al resto. Voglio dire, non ci si dovrebbe mai lasciar paralizzare da una cosa sola, per grave che essa sia. La gran corrente della vita deve continuare a scorrere. Mi prendo ogni volta per mano e mi dico: adesso hai da preparare quella lezione per domani e stasera devi cominciare l'idiota di Dostoevskij, ma non come un capriccio, devi studiartelo pazientemente, da cima a fondo, come se fossi un salariato. Nel frattempo farò i miei salti giù dalla scala e compirò quelle altre cerimonie con l'acqua. Ho anche la sensazione che dentro di me si compia un mistero di cui nessuno sa nulla. Dopotutto, sto partecipando a un avvenimento elementare. In questa situazione, indubbiamente un po' penosa, constato in me una forte volontà di non lasciarmi mettere sotto. Farò in modo che tutto vada a posto e andrà a posto. Continua a lavorare tranquilla, non sprecare le tue forze. Con esse una passeggiatina frizzante, oggi alle 2. Aveva di nuovo qualcosa di raggiante, qualcosa di un ragazzo. Irradia vero amore in tutte le direzioni, anche verso di me, e io lo rifletto a mia volta. Crisantemi bianchi, così nuziali. Nel mio cuore gli sono fedele. Sono anche fedele a Han. Sono fedele a tutti. Per strada cammino accanto a un uomo con in mano dei fiori bianchi che paiono un mazzolino da sposa, e lo guardo in viso con occhi raggianti. E solo 12 ore fa ero tra le braccia di un altro uomo e gli volevo e gli voglio bene. È mancanza di gusto? È decadente? Per me è tutto perfettamente in ordine. Forse perché ciò che è fisico non mi importa. Non mi importa più molto. Si tratta di un altro amore che si estende più lontano. Oh, mi sto illudendo. Sono troppo vaga anche nei miei rapporti con gli altri? Non credo. Come mai questa ossessione improvvisa che sia tutto sbagliato? Sabato mattina, 9:30. Innanzitutto mi fregherò sotto il mento per farmi coraggio per questa giornata. Al mio risveglio stamattina presto, per un momento quell'oppressione di piombo, quell'irrequietezza nerissima senza ombra di montatura, in fin dei conti non è una piccolezza. Mi sembra di salvare la vita a un essere umano. No, è ridicolo dire che io salvi la vita di una persona mentre cerco di eliminarla con tutte le mie forze. Voglio risparmiarle il dolore di percorrere questa valle di lacrime. Rimarrai nella condizione protetta di chi non è ancora nato e sii riconoscente, essere in divenire. Provo quasi tenerezza per te. Ti attaccherò con acqua calda e con orribili strumenti. Ti combatterò con pazienza e costanza fin tanto che non ti sarai di nuovo dissolto nel nulla. E allora sentirò di aver compiuto un'azione buona e responsabile. Non ti posso certo trasmettere forze sufficienti. Troppi germi di malattie ereditarie si aggirano per la mia famiglia. Ho assistito poco tempo fa alla scena di Misha, che in uno stato di totale confusione era stato portato a forza in una casa di cura. Ho giurato allora che dal mio grembo non nascerà mai un essere altrettanto infelice. Purché non duri troppo a lungo. Altrimenti mi verrà un'angoscia terribile. È passata solo una settimana e già sono stanca e stufa di tutti quei provvedimenti. Ma ti sbarrerò l'ingresso a questa vita e non dovrai lamentartene. Venerdì mattina, le 9. Ci si lamenta di come fa buio al mattino. Per me, invece, è spesso l'ora migliore del giorno, quando l'alba s'affaccia grigia e silenziosa alle mie pallide finestre. In quel grigiore silenzio c'è allora una macchia luminosa e violenta, la piccola lampada velata che rischiara il grande piano scuro della mia scrivania. La settimana scorsa è stata proprio la mia ora migliore. Ero immersa nell'idiota. Traducevo solennemente qualche riga in un quaderno, aggiungevo una breve annotazione mia e di colpo erano le 10. Allora ho pensato, sì, così devi studiare, così assorta, va così, va bene. Stamattina una profonda tranquillità. Proprio come una tempesta che si è calmata. Mi accorgo che questo stato d'animo si ripete ogni volta. Dopo giorni di vita interiore terribilmente intensa, ricerca di chiarezza, doglie patite per sentimenti e pensieri che non sono affatto pronti per nascere, enormi pretese da parte mia e la ricerca di una piccola forma propria che diventa di un'importanza capitale, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco che poi tutto questo affanno improvvisamente mi cade di dosso. Il mio cervello è piacevolmente stanco. C'è bonaccia di nuovo. Sento quasi una sorta di dolcezza anche verso me stessa. E su di me cala un velo attraverso cui la vita filtra più mite e spesso più ridente. Sento, allora, di essere tutt'uno con la vita. Inoltre, che non sono io individualmente a volere o a dover fare questo o quello, ma che la vita è grande e buona e attraente e eterna, e che se tu dai tanta importanza a te stessa, ti agiti e fai chiasso, allora ti sfugge questa grande, potente, eterna corrente che è appunto la vita. E proprio in questi momenti, e quanto ne sono riconoscente, che ogni aspirazione personale mi abbandona, la mia ansia, per esempio, di conoscere, sapere, si acquieta e un piccolo pezzo d'eternità scende su di me con un largo colpo d'ala. So bene che questo stato d'animo non dura a lungo. Magari è già passato dopo mezz'ora, ma nel frattempo ho potuto di nuovo attingervi forza. E che poi questo senso di gran respiro e dolcezza sia dovuto alle 6 aspirine prese ieri sera a causa di un forte mal di testa o alla musica suonata di Miscia oppure al caldo corpo di Ann nel quale mi sono completamente seppellita stanotte, chi lo può dire? E che importa? L'orologio ticchetta dietro le mie spalle. I rumori in casa e in strada sono come una risacca lontana. Una lampada rotonda bianca nella casa di rimpetto si intravede nel livore di questa mattina piovosa. Mi sento alla mia scrivania, con la sua grande superficie scura, come su un'isola deserta. La statuetta della bruna ragazza marocchina guarda fuori, nella mattina grigia, coi suoi seri occhi scuri che sono animaleschi e limpidi al tempo stesso. E che importa se studio una pagina di libro in più o in meno, purché tu viva dando ascolto al ritmo che ti porti dentro, a ciò che sale dal fondo di te stessa. Gran parte del tuo comportamento è una forma di imitazione, oppure risponde a doveri inventati o a preconcetti errati su come una persona dovrebbe essere. L'unica sicurezza su come tu ti debba comportare ti può venire dalle sorgenti che zampillano nel profondo di te stessa. E io lo dico ora con tutta umiltà e riconoscenza e sincerità, anche se so bene che tornerò a essere suscettibile e ribelle. Dio mio, ti ringrazio perché mi hai creata così come sono. Ti ringrazio perché talvolta posso essere così colma di vastità, quella vastità che non è poi nient'altro che il mio essere ricolma di te. Ti prometto che tutta la mia vita sarà un tendere verso quella bella armonia e anche verso quell'umiltà e vero amore di cui sento la capacità in me stessa nei momenti migliori. E ora, presto, a sparecchiare la tavola della colazione e a preparare ancora un momento la lezione per Levi, e devo mettermi anche un po' di colore sulla bocca. Domenica mattina. Ieri sera, subito prima di andare a letto, mi sono trovata improvvisamente in ginocchio nel mezzo di questa grande stanza tra le sedie di acciaio sulla stuoia chiara. Un gesto spontaneo, spinta a terra da qualcosa che era più forte di me. Tempo fa mi ero detta: mi esercito nell'inginocchiarmi. Esitavo ancora troppo davanti a quel gesto che è così intimo come i gesti dell'amore, di cui pure non si può parlare se non si è poeti. Qualche volta ho la sensazione di avere Dio dentro di me, aveva detto un paziente a esse, per esempio quando ascolto la Passione secondo Matteo. E esse aveva risposto all'incirca che in questi momenti lui era in contatto diretto con le forze creative e cosmiche che operano in ogni persona e che questo principio creativo era in definitiva una parte di Dio. Si doveva avere solo il coraggio di dirlo. Queste parole mi accompagnano già da settimane. Si deve avere anche il coraggio di dirlo. Avere il coraggio di pronunciare il nome di Dio. Una volta esse mi ha detto che ci aveva messo molto tempo, come se ci avesse trovato sempre qualcosa di ridicolo. E prego anche alla sera, prego per delle persone. E io gli avevo chiesto con la mia solita faccia tosta e con la mia pretesa di voler sapere tutto quanto: che cosa dice quando prega? Lui era rimasto tutto imbarazzato. E poi quest'uomo che sa sempre rispondere in modo chiaro e trasparente alle mie domande più sottili e più intime mi aveva risposto timidamente: questo non glielo dico, per adesso no, più tardi. Ogni tanto mi chiedo come mai questa guerra, con tutte le sue implicazioni, mi tocchi così poco. Forse perché è la mia seconda guerra mondiale? La prima l'ho vissuta violentemente e intensamente attraverso la letteratura del dopoguerra. Ribellione, avversione, passione, discussioni, giustizia sociale, lotta di classe, eccetera, eccetera. Tutto questo l'abbiamo già vissuto una volta. Ricominciare una seconda volta non va, diventa un cliché. Naturalmente ogni paese prega di nuovo per la sua giusta vittoria. Sono ricomparsi tutti gli slogan. Ma ora che viviamo questa situazione per la seconda volta, sarebbe troppo ridicolo e insulso se ci lasciassimo prendere dall'agitazione o dalla passione. Ieri sera, nel bel mezzo di una conversazione, ho detto a Hans, che ha 21 anni: questo dipende dal fatto che la politica non è la cosa più importante per te. E lui: non c'è bisogno di parlarne tutto il giorno, è comunque la cosa più importante. Tra i suoi 21 anni e i miei 27 ci passa già una generazione intera. Ora sono 9:30 di mattina. Ann russa, là, dietro, con un suono piano e familiare, nella stanza in penombra. La mattina domenicale, grigia e silenziosa, sta crescendo e facendosi giorno chiaro. Il giorno continuerà a crescere, diventando sera. E io cresco con essi. In questi ultimi 3 giorni è come se io fossi passata attraverso un processo di maturazione di anni. E ora, brava e disciplinata, di nuovo alla traduzione e alla grammatica russa. 2:00 PM, catalogando i libri della biblioteca di esse, ci trovo Das Studentenbuch di Rilke. Può sembrare paradossale, ma esse guarisce le persone insegnando loro ad accettare il dolore. Mercoledì, di sera, Ruth, la figlia di esse, riceve regali dagli appassionati di teatro in una piccola città di provincia tedesca e Erta li riceve dalle prostitute a un chiosco di libri di un parco londinese. La bionda stella dell'operetta ha 22 anni e la bruna ragazza melanconica ne ha 25. La seconda è la futura matrigna della prima. La vera madre è fidanzata con un uomo di 25 anni e lei ne ha quasi già 50. Il suo ex marito, il padre e futuro sposo, abita in due piccole camere a Amsterdam, legge la Bibbia e si deve radere tutti i giorni, e i seni delle molte donne che lo circondano sono come altrettanti frutti di un ricco frutteto verso cui lui non ha che da allungare avidamente la mano. E la segretaria russa cerca di farsi un'idea di tutto questo insieme. Nasce un'amicizia che mette sempre più radici nel suo cuore incostante. La segretaria continua ancora a dargli del lei, ma questo serve forse a ristabilire la giusta distanza, che consente a sua volta di mantenere una visione d'insieme. Il desiderio insensato e appassionato di perdermi per lui si è già calmato da tempo, è diventato ragionevole. Perdermi per una persona è sparire dalla mia vita. Forse mi è rimasto il desiderio di perdermi per Dio o per una poesia. Il gran cranio dell'umanità, il suo potente cervello e il suo grande cuore. Tutti i pensieri, per quanto contraddittori, nascono da quell'unico grande cervello, il cervello dell'umanità, di tutta l'umanità. Lo sento come un unico grande insieme e forse è di lì che mi viene di tanto in tanto quel profondo sentimento di armonia e di pace, malgrado le numerose contraddizioni. Bisogna conoscere tutti i pensieri e sentirci passar dentro tutte le emozioni per sapere che cosa sia stato ideato in quell'immenso cranio e che cosa sia passato per quel gran cuore. E così la tua vita è un passare da un parto all'altro. Forse dovrò spesso cercare il mio parto, la mia liberazione in un cattivo pezzo di prosa. Così come un uomo spinto dal bisogno trova la sua liberazione in quella che, detta energicamente, si chiama puttana. Perché a volte si grida per partorire, in ogni modo. Lunedì pomeriggio, le 5. Conosco i suoi gesti intimi con le donne e ora vorrei ancora conoscere i gesti che ha per Dio. Prega tutte le sere. Si inginocchia in mezzo alla cameretta? Nasconde la testa pesante dietro le sue grandi belle mani? E si inginocchia prima di essersi tolto la dentiera o dopo? Quella volta, a Arnhem, le farò vedere come sto senza denti. Ho un'aria così vecchia e così dotta. La ragazza che non poteva inginocchiarsi. Nell'alba grigia di oggi, in un moto di irrequietezza, mi sono trovata improvvisamente per terra, in ginocchio tra il letto disfatto di Ann e la sua macchina da scrivere, tutta rannicchiata e con la testa che toccava il pavimento. Forse un gesto per estorcere pace. E a Han, che entrava in quel momento e sembrava un po' stupito di quella scena, ho detto che cercavo un bottone, ma non era vero. Tiedemann, quella robusta donna di 35 anni dai capelli rossi, aveva detto una sera con voce chiara e sonora: «Vedi, in questo sono come un bambino. Se ho delle difficoltà mi inginocchio nel mezzo della mia camera e chiedo a Dio cosa devo fare». Bacia come una ragazzina, esse me l'ha mostrato una volta, ma i suoi gesti verso Dio sono maturi e sicuri.